E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Prima di andare a sentire i titoli del nostro sommario, ringrazio in regia la parte tecnica Roberto Scaltritti e Laura Vanossi in redazione. Andiamo. Un fratello nella vita, un limite o una risorsa? Come ti massaggio il pupo? Il Tuina. Donne in gravidanza e vaccino. Chiariamoci le idee per tenere sotto controllo la paura. Bene bene, fratelli e sorelle di Radio 24, oggi parliamo di voi, anzi di noi. Il numero verde è già a disposizione, naturalmente anche per i figli unici, ma oggi diamo precedenza a chi è nato da solo e si è trovato poi un fratello o una sorella a fianco, quindi primogeniti, ma anche chi è nato in una famiglia in cui i primi posti erano già stati occupati, diciamo così. Quindi parliamo dei secondo e terzo geniti. Il momento, d'altronde, in cui si arriva in una famiglia sembra faccia differenza, come anche la compagnia che si trova ad attenderci. Allora, diteci come è andata a voi, come sta andando anche con i vostri figli. Oggi parliamo di relazioni fraterne, relazioni che hanno dinamiche, caratteristiche particolari che producono effetti che si fanno sentire nel breve e nel lungo periodo. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Sacca, psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Figlia unica o sorella? Primogenita di tre. La dice con un'aria un po' già, con una voce già affaticata. Sono affaticata, essere primogenita è molto faticoso, almeno lo era un tempo, nel senso che ci caricavano di responsabilità, eravamo i latori del buon esempio al posto dei genitori quando serviva, era una carica, insomma, un carico, un onere. Adesso spero che lo sia di meno. Vediamo con i nostri ascoltatori che cosa ci raccontano magari i primogeniti e come si stanno comportando i loro figli primogeniti. 824 0024, ma in studio abbiamo anche Alberto Pellai, che viene da una famiglia numerosa e a sua volta ha una famiglia altrettanto numerosa. La dottoressa Sacca, primogenita, tu sei ultimo genito. Io sono l'ultimo dei quattro. Ultimo genito di quattro, quindi dovrei essere molto riposato, visto che la fatica la fanno tutta i primogeniti. Invece devo dire che anch'io mi rivendico un po' della mia fatica di ultimo arrivato. Sì, Anche gli ultimi, secondo me, sono in una posizione strategica e anche a loro competono tutta una serie di responsabilità rispetto ai fratelli maggiori. Allora, fateci sentire la vostra opinione. Siete dell'idea che della dottoressa Sacca i primogeniti fanno una vita più dura, almeno quelle della nostra generazione, oppure ci sono anche difficoltà per chi è nato ultimo e anche per i fratelli di mezzo? Che spesso anche loro hanno una posizione scomoda, proprio sono... Non sono piccoli, non sono grandi, sono a metà. Insomma, gli amici te li cerchi, i fratelli te li trovi, e per anni hai con loro una convivenza piuttosto stretta. Insomma, diciamocelo Alberto, sono loro i compagni della nostra vita, anche quando non si vive più sotto lo stesso tetto. Perché la relazione che abbiamo costruito con loro a partire dall'infanzia ritorna, anche con le relazioni con persone con cui non abbiamo legami di sangue. È così, e devo dire però che la relazione tra fratelli, quando si diventa adulti, diventa anche molto impegnativa, perché ci si trova poi nella posizione di dover accudire i tuoi genitori che diventano anziani, oppure devi ricostruire una cooperazione intorno a sfide o fatiche che la vita ti mette davanti, e a quel punto devi proprio imparare a funzionare da adulto e a chiedere aiuto, a dare aiuto ad un fratello. Non sempre è così facile, e spesso i rapporti tra fratelli, proprio di fronte alla sfida che da adulto la vita ti mette davanti, diventano rapporti molto molto faticosi. Dottoressa Sacca, lei è d'accordo? Concordo assolutamente, anche perché poi nella vita, andando avanti, non c'è più solo il rapporto puro tra fratello e sorella, fratello e fratello, ci sono i compagni dei rispettivi fratelli, ci sono poi i figli dei fratelli, e quindi viene a crearsi un universo di rapporti che può fluire liscio se già prima le cose andavano lisce, può avere dei grossi problemi se c'era qualche difficoltà prima. È comunque vero che i fratelli non li scegliamo, così come non scegliamo i genitori. È vero che esistono delle componenti genetiche che, che si può anche andare a vedere, però è sicuramente vero che il clima di fratellanza lo creano i genitori durante la prima infanzia. Allora, perché... noi cercheremo di parlare di differenze, di limiti, di risorse, di questo rapporto che ci condiziona, gioco forza per tutta la vita, 824 0024, ma prima di parlare delle differenze, cerchiamo un po' di capire che cosa hanno in comune i fratelli. A volte è proprio solo un'area di famiglia, perché ci sono fratelli che si assomigliano davvero poco, ma come si dice, non bisogna farsi ingannare dalle apparenze. Chiedo subito conferma alla scienza. In linea con noi abbiamo il professor Emiliano Giardina, che è docente in genetica medica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, colleghi e nostri ascoltatori. Allora professore, che cosa hanno in comune i fratelli? Dunque, dal punto di vista genetico, i fratelli condividono il 50% del proprio DNA, esattamente quanto un padre e una madre con i figli. E soltanto i gemelli identici, ovvero quelli che condividono il 100% di sequenza, hanno una condivisione maggiore. Pertanto, alla luce di questa condivisione di DNA, i fratelli hanno in comune molte caratteristiche, e proprio per questa loro caratteristica, scusate il gioco di parole, sono stati a lungo studiati e sono attualmente studiati per scoprire le basi della nostra ereditarietà e per scoprire molto di quello che sappiamo oggi sulle malattie. Una cosa mi sento però di dire è che possiamo sfatare questo mito dei fratelli di sangue. Infatti spesso mi viene chiesto: una coppia di fratelli può avere gruppi sanguigni diversi, quindi due fratelli possono avere un gruppo sanguigno diverso. Quindi quando noi diciamo legami di sangue... È vero in parte. È solo vero in parte, una verità a metà. Senta professore, ci sono fratelli che si assomigliano molto, stesso colore di occhi, di capelli, stessa altezza, stessa corporatura, altri che non si assomigliano per nulla. Mater certa, pater putatus, ma insomma non è il caso in questo modo, ma perché ci sono queste differenze? Allora, certamente i fratelli tendono ad assomigliarsi di più tra loro nella media rispetto a persone che non sono chiaramente imparentate tra loro. Sì. Infatti spesso li troviamo concordanti per il colore degli occhi o per l'altezza o anche per la corporatura. In tal senso la genetica sta ultimamente scoprendo un numero sempre crescente di geni che sono responsabili in parte, almeno in parte, di queste caratteristiche fisiche che noi chiamiamo antropometriche. Ad esempio, una piccola parentesi in ambito forense, questo è un campo in grande evoluzione, perché si cerca di poter risalire ad un identikit di un indagato che ha lasciato magari il proprio DNA sulla scena di un crimine. Tuttavia però questo dobbiamo dire che ancora non è possibile, non esiste nessun test genetico al mondo in grado di predire questo tipo di caratteristiche. Perché, per rispondere più probabilmente alla sua domanda, perché alcuni sono simili ed altri invece si differenziano molto, questo è nel segreto che è descritto dalle leggi di Mendel. Infatti in ogni figlio i geni dei genitori si mescolano casualmente, e questa alchimia rende incredibilmente affascinante la nostra variabilità umana. E infatti vi possono essere tante differenze, ma anche tante somiglianze. Non lo possiamo dire, forse anche il segreto della genetica. Professore, dai tratti somatici alla personalità, ci sono studi o evidenze che sottolineano una predisposizione ad alcuni comportamenti? Questa è una bella domanda, una domanda molto complessa, perché ogni comportamento è determinato, come si diceva prima in studio, dai geni e dall'ambiente, un ambiente che è inteso quale società, educazione, cultura. E chiaramente la difficoltà nel comprendere questo può essere evidenziata da una battuta che circola nelle università, secondo la quale i professori sono soliti attribuire l'intelligenza dei propri allievi all'ambiente e quella dei propri figli ai geni, come a dire che ciascuno può vedere le cose nel modo in cui più le fa comodo. Un messaggio però mi sento di esprimere con grande chiarezza, sì. Ovvero in relazione a quanto è emerso negli ultimi tempi. Non esiste un gene del comportamento violento, un gene della violenza. Nessuno nasce violento alla nascita, quindi con un DNA violento. Non esiste questo, anzi proprio gli studi sui gemelli, sui fratelli, hanno dimostrato che il comportamento è dipendente dall'ambiente e non tanto dai geni. E allora noi indagheremo un po' l'ambiente che ci ha fatto crescere, ci ha condizionato, insieme ai nostri esperti e ai nostri ascoltatori, che possono come sempre intervenire all'800 24 00 24. Professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata, a prestissimo. Arrivederci, grazie a voi. Una mela al giorno. E adesso voltiamo pagina per occuparci dei nostri bambini, anche se sono figli unici. In modo particolare ci occupiamo del loro pancino, che a volte fa i capricci un po' come fanno loro e si lamenta. Le ragioni lo sappiamo bene, possono essere tante, diverse, un colpo di freddo, una pancina gassosa, o più semplicemente il nostro bambino può aver mangiato troppo, aver fatto indigestione. Allora, che cosa fare? Proviamo a massaggiare la pancia del nostro bambino come ci suggerisce la medicina tradizionale cinese, i massaggi pediatrici, alias il Tuina. Ce lo facciamo insegnare dal dottor Renato Crepaldi, che è medico, esperto in agopuntura e docente dell'Accademia di Medicina Tradizionale Cinese di Bologna. Dottor Crepaldi, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, dottor Crepaldi, mal di pancia ci mette sempre un po' di preoccupazione e viene naturale per la mamma massaggiare la pancia del bambino. Sì, la cosa più naturale sono delle tecniche che sono mediate dal Tuina pediatrico, il massaggio pediatrico cinese, che sono anche di semplice esecuzione. La prima, ne posso dare indicare due che sono forse le più semplici. La prima è la manipolazione dell'addome, che viene fatta con i polpastrelli della madre o anche del padre, l'indice medio e anulare, e leggermente sotto l'ombelico. E si procede in senso orario da destra verso sinistra con un massaggio leggero. Deve essere fatto anche 5 minuti un massaggio di questo genere. Invece la seconda manipolazione è mettendo l'indice sull'ombelico, sì, e gli altri due dita rimangono leggermente scostate e lì si massaggia in modo circolare. Vengono massaggiati praticamente tre punti di agopuntura molto importanti che hanno proprio un'azione su tutto l'addome. Ma dottor Crepaldi, li proviamo in sequenza oppure una manipolazione più adatta per un tipo di mal di pancia e una per un altro? Ma queste due possono essere fatte generalmente in sequenza su tutti i mal di pancia. Generalmente il mal di pancia nel bambino o è da eccesso di alimentazione, oppure può essere da freddo, molto spesso è da freddo. Allora col freddo bisogna veramente anche provocare un po' di calore, un po' di frizionamento, però possono essere fatte tranquillamente in sequenza. Dottor Crepaldi, abbiamo parlato di mal di pancia da freddo o da indigestione, diciamo così. Sappiamo che i bambini molto piccoli soffrono spesso di colichette gassose. Ci aiuta il Tuina? Sì, il Tuina aiuta perché disperde questi dolori, questa energia che nella medicina cinese viene proprio considerata bloccata e quindi sblocca un pochino. Bisogna fare ovviamente, essendo il bambino molto piccolo, quando si parla di coliche gassose sono per bambini di qualche mese, bisogna veramente fare un massaggio molto delicato, non si pensi a fare delle manovre molto forti. E tutto ruota intorno all'ombelico, possiamo dire così? Il tutto ruota all'ombelico e nei punti leggermente sotto, due centimetri sotto l'ombelico, da destra verso sinistra. 5 minuti di massaggio, leggero, sì, costante. È indicatissimo anche per i padri, perché ad esempio anche il padre, che così il bambino prende anche coscienza da un punto di vista proprio tattile, anche dalla presenza del padre, non solo della madre. Questa è una buona indicazione, quindi alle nostre ascoltatrici insegnate questi semplici massaggi che il dottor Crepaldi ci ha spiegato anche al papà del vostro bambino e mettetelo al lavoro. Dottor Crepaldi, grazie per essere stato con noi, buonissima giornata. Altrettanto, arrivederci a tutti. Pronto soccorso. E in chiusura di trasmissione, a proposito di bambini piccoli, ci occuperemo, come promesso, delle loro mamme, delle donne che aspettano adesso un bambino, per rispondere ai vostri dubbi sulle vaccinazioni alle donne in gravidanza. Ci sarà con noi in chiusura di trasmissione il professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Arrivano tanti messaggi. Io non sono nata sola, sono gemella e mia sorella è il regalo più bello che la vita mi ha fatto. Giulia ci scrive da Milano. Alberto. Beh, questo è tipico, credo, nei rapporti tra gemelli. Costruiscono proprio delle relazioni fortissime su cui un gemello si appoggia sull'altro, alcuni, il rischio è quello dell'invischiamento simbiotico, cioè sono talmente uniti che non riesci a separarli. Senti Alberto, dato che a volte può essere difficile raccontare la relazione con il proprio fratello, con la sorella, si tende sbrigativamente a dire tutto bene, tutto male, non lo so, ma non ho voglia di parlarne. Allora io non so, proverei a dire ai nostri amici da casa di raccontare la loro relazione o il loro fratello con quel gioco del se fosse. Se tuo fratello fosse un albero, una pianta, un libro, un personaggio storico, cosa dici? È che è un bel gioco, attraverso le metafore si possono comprendere moltissimi aspetti. Allora, quindi preparatevi, intanto proviamo a coinvolgere in questa sorta di gioco anche, che ci offrirà, come abbiamo detto, diversi spunti di riflessione, il nostro ospite, che è Giovanni Veronesi, regista e fratello del non meno famoso Sandro, scrittore. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che piacere, vostro padre vi voleva architetti, voi siete diventati uno regista e l'altro scrittore, anche se con laurea in architettura, giusto? Sì, Sandro è laureato, io no. Però insomma, tutti e due abbiamo preso la strada dell'architettura. Senti Giovanni, il nostro genetista, il professor Giardina, che è intervenuto prima di te, diceva che è comunque l'ambiente che condiziona molto, no? Allora si dice che a casa vostra evidentemente si respirava un'aria particolare. Ma sì, devo dire che la simpatia di mia madre, diciamo, mi ha portato verso un genere di cinema piuttosto ironico, comico, grottesco, perché mia madre era molto sarcastica, molto grottesca, per cui insomma ironizzava su tutto. Mio padre era invasato totalmente con i filmini, penso che io e mio fratello siamo i ragazzini più filmati degli anni 60. Ci ha filmato ovunque, insomma, facevamo qualsiasi cosa, filmava, quindi abbiamo in eredità una serie di filmini, poi li montava da solo, quindi c'aveva una centralina di montaggio, era uno già invasato con il cinema, quindi penso che anche lì il gene mi sia arrivato. E poi ha scritto due libri mio padre, e quindi... per cui anche lì molto probabilmente Sandro ha attinto da quell'altro gene. Senti Giovanni, tu sei il minore, giusto? Sì. Più vantaggi o più svantaggi? Più vantaggi, assolutamente. Anch'io sono minore, concordo. Lui si è scornato con tutte le prime volte, io sono arrivato e la strada era già fatta. E ci sono gli svantaggi del minore, cioè che se il maggiore sbaglia a fare una cosa, il minore poi magari ne risente, tipo, che ne so, motorino a 14 anni, se mio fratello si fosse sfranto a un semaforo forse a me non me l'avrebbe dato, ma fortunatamente mio fratello è una persona coscienziosa. Senti Giovanni, a proposito di motorino, io quest'estate ho letto sul Corriere della Sera una tua intervista in cui raccontavi proprio un aneddoto a proposito del motorino, in cui così c'è una pennellatura su tua mamma che trovo deliziosa. Tu sei tornato a casa cascato dal motorino e hai detto subito a tua mamma: non mi sono fatto niente di particolare. E lei ti, almeno nell'intervista c'era, io ti voglio bene anche quando sei stupido, e questo per me è un grande svantaggio. E lì sono rimasto, dici tu, magnifico. E beh, lì ho capito di avere di fronte una persona dalla quale non si può altro che imparare, perché quando uno ti dice una cosa del genere significa che va nel profondo. Forse lì per lì non ho nemmeno recepita come andava, perché ero ragazzino e quindi insomma l'ho lasciata scivolare via, ma nel lasciarla scivolare via molto probabilmente l'ho ingoiata e piano piano mi è tornata fuori. Insomma, quelle penso che siano le cose vere che i genitori devono fare con i figli, cioè dargli delle risposte che magari lì per lì non sono neanche apprezzate, ma che rimangono dentro nel tempo per tutta la vita, e quando ne hai bisogno sai dove attingere. Senti, chi era il cocco? Io forse. Ma Sandro era uno di quelli che discuteva fino alle 4 di notte, sì. Per mio padre era una specie di gioco furioso, dove anche scatenarsi e lasciarsi andare. Mio fratello era proprio uno di quelli col quale si poteva litigare per delle ore e ore, anche sul nulla, anche sul sale, anche su passami l'olio. E tu eri più morbido, più accogliente? Sì, io all'inizio sì, poi dopo mi sono indurito anch'io, però È stata colpa del commercialista che mi ha rubato un sacco di soldi. È indurito per quello, secondo me. Senti, arrivato a un certo punto è stato quello. Senti Giovanni, genitori e figli dal 26 febbraio. Film molto ispirato per me, dedicato ai miei genitori. La dedica recita così: questo film è dedicato ai miei genitori scomparsi prematuramente a 80 anni. Magnifico. Senti Giovanni, se c'è qua Alberto Pellai, che mi ha già detto subito prima, l'hai invitato per Questa casa non è un albergo, io ho detto già fatto, vero che te l'avevo già chiesto ieri? Sì, è vero, me l'hai già detto. Ho detto. Anche se ormai bisogna cambiare, Questa casa non è un agriturismo, Questa casa non è un bed and breakfast, ormai l'albergo non va più di moda. Vero, anche noi, adesso cambieremo, io proverò a dirlo alle mie ragazze. Senti Giovanni, se dovessi descrivere, aiutaci con il se fosse, Sandro, con un se fosse, puoi scegliere tu, un personaggio storico, un animale, un dolce, una focaccia, che cosa chiedere? Non lo so, se fosse, dimmi te che cosa se fosse. Se fosse un animale. Se fosse un animale sarebbe un dromedario. Un dromedario. Uno di quelli che ha le riserve d'acqua per tanto tempo, può stare da solo nel deserto. Ma mi sembra anche che è un animale probabilmente considerato forse protettivo, cioè con quest'idea della riserva d'acqua probabilmente lui ha in mente un fratello che sa portarlo in giro anche nelle condizioni più faticose e sa proteggerlo in mezzo al deserto. Giovanni, grazie per essere stato con noi. Noi ti aspettiamo a Questa casa non è un albergo, sottotitolo non è un bed and breakfast. Intanto un abbraccio e grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi, saluto a tutti gli ascoltatori. Relazioni fraterne, questo è il tema di oggi. Voglio leggervi il messaggio di Niki. Sono la più piccola di quattro sorelle. Io sono un girasole. Segue un'edera che si attacca ovunque, un dolce bell'acero ed un noce nazionale. Gigi D'Alecco ci scrive: mio fratello è un'edera carnivora. L'idea dell'edera, Alberto, torna, che a volte genera fior di loto che emanano sostanze tossiche. Ma guai se non ci fosse. Adesso apriamo una parentesi, come promesso, per parlare di vaccinazione in gravidanza. In linea con noi abbiamo il professor Remuzzi. Professore, buongiorno. Buongiorno. Lei non è figlio unico, vero? No, io ho quattro sorelle. Magnifico. È vissuto... Ero il primo però di quattro sorelle. Sì, però le è andata benissimo. Sì, molto bene. Molto bene. Noi ci occupiamo adesso col professor Remuzzi di vaccinazioni. Prendiamo spunto da una delle numerosissime mail che ci sono arrivate in redazione, perché sottolinea alcuni delle dei dubbi e delle domande più frequenti. Andiamo a sentirla. Buongiorno, mia moglie è incinta di 4 mesi e mi chiede consiglio se vaccinarsi o no. Ho cercato di informarmi su internet e trovo tutti i pareri univoci, cioè non vaccinarsi. Conoscenti mi dicono che alcuni ginecologi, anche ospedalieri, sconsigliano la vaccinazione. Ho letto di alcuni ingredienti del vaccino anti-influenzale H1N1 molto preoccupanti, tra cui adiuvante alluminio, che può causare gravi disfunzioni neurali, squalene, causa lupus, sclerosi multiple, eccetera, formaldeide, sostanza cancerogena la cui presenza è confermata anche sul bugiardino del vaccino. Su alcuni siti consigliano la vaccinazione, ma senza adiuvanti. Resto in attesa della vostra trasmissione. Ed eccolo qui accontentato il nostro ascoltatore. Professor Remuzzi, partiamo dai dati di fatto. Quali sono attualmente le linee guida ufficiali per la vaccinazione delle donne gravide? Ma questo è un quesito che è stato posto al Consiglio Superiore di Sanità da parte del Ministero, e l'indicazione del Consiglio Superiore di Sanità è stato che si devono vaccinare le categorie a rischio, e fra le categorie a rischio rientrano le donne in gravidanza, donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza. Professore, cosa succede negli altri paesi? C'è grandissima sensibilità, per esempio negli Stati Uniti, per vaccinare le donne in gravidanza. Le ragioni sono che i dati hanno fatto vedere che nei primi 3 mesi, quando da aprile a giugno, quando non c'era ancora il freddo negli Stati Uniti, sono state ricoverate 100 donne in gravidanza nelle terapie intensive e 28 sono morte. E che è un numero che non fa paura, però non è un numero che si avvicina a quelli dell'influenza stagionale, non per il numero di morti in senso assoluto. Con questa influenza pare che muoiano meno persone, sì. Anche se non lo possiamo ancora dire, ma dai dati dell'Australia, dove l'inverno è appena concluso, c'è questa evidenza. Però il numero delle donne in gravidanza che hanno problemi è un numero un pochino più preoccupante che per le influenze stagionali. Per esempio, in Australia e in Nuova Zelanda sono state ricoverate in terapia intensiva durante tutto il periodo dell'influenza, inclusi i mesi freddi, 66 persone. Mm. E quindi è una preoccupazione. Le donne in gravidanza sono giovani, da noi potrebbe essere un po' diverso perché l'età, esatto. Perché bisogna calcolare che negli Stati Uniti le persone ci sono neri e ispanici che hanno gravidanze molto giovani. Da noi non è così, da noi le persone con la gravidanza hanno una gravidanza un pochino più tardi, però le persone giovani certamente sono a rischio anche se non hanno nessuna malattia. E anche perché in gravidanza il sistema immune opera a una velocità un pochino ridotta, perché non deve rigettare il feto. Quindi i numeri suggeriscono senz'altro che le donne in gravidanza debbano essere vaccinate. Senta, professore, però ci sono tanti dubbi, su internet si leggono tante cose, come anche pareri discordanti, direi, tra gli addetti ai lavori. Il nostro ascoltatore citava del componente delle sostanze combinate con il vaccino, e anche un'ulteriore domanda è: ma ci sono test, siamo tranquilli, che cosa possono portare? Professore, rapidamente, lei che cosa risponderebbe al nostro ascoltatore? Ma l'adiuvante da piccoli fastidi, soprattutto dolore e un po' di infezione in sede di iniezione. Però i dati che ci sono su adiuvanti analoghi usati in vaccini stagionali, 26.000 persone è uno studio con questo adiuvante MF56 che ha una combinazione di olio, squalene e acqua, 44 studi controllati. Novartis ha usato 40 milioni di dosi di vaccino negli ultimi anni, sempre per l'influenza stagionale, senza che sia emerso nessun problema. Questi studi sono stati fatti negli anziani, la risposta all'adiuvante è un pochino più debole negli anziani, potrebbe essere diverso nei bambini e nelle donne in gravidanza. Grandi studi nelle donne in gravidanza non ce ne sono, però quello che è stato fatto con l'influenza stagionale non ha mai messo in evidenza con questi adiuvanti pericoli particolari. Certo, certo, la cosa ideale sarebbe, come si fa negli Stati Uniti, vaccinare le donne in gravidanza con vaccino non adiuvato. L'Italia ha ordinato anche il vaccino non adiuvato di Novartis, che sarà disponibile, quindi questo sarebbe il vaccino più sicuro. Però tra il vaccino adiuvato in gravidanza e il pericolo di prendere la influenza, è molto peggio l'influenza. Quindi, per quanto ci possano essere dei piccoli dubbi, perché gli studi non sono stati fatti con questo tipo di vaccino nelle donne gravide, è chiaro che il pericolo dell'influenza, da tutti gli studi che sono stati fatti finora, è più grande di quello del vaccino. Tra l'altro, è stato pubblicato proprio in questi giorni uno studio bellissimo fatto su 9 influenze stagionali dal 2000 al 2009. Hanno fatto vedere che i bambini, sì, nati da mamme che si sono vaccinate hanno molta meno probabilità di essere ricoverati in ospedale nei primi 6 mesi di vita, ma anche fino da 0 a 12 mesi, fino a un anno di vita. E quindi uno vaccina la mamma e protegge anche il bambino. Tra l'altro, questo è l'unico modo per proteggere i bambini più piccoli di 6 mesi, il cui sistema immune è immaturo e che non possono essere vaccinati. Quindi la vaccinazione in gravidanza andrebbe certamente fatta. Calcoliamo che il vero problema è che in gravidanza l'utero spinge in sul diaframma, quindi si comprime la parte bassa dei polmoni, arriva poca aria e in questa zona con poca aria il virus ha facilità a riprodursi molto rapidamente. A un mese dal parto, vaccino sì o no? Ci chiede Cesare, e poi la saluto, professore Muzzi. A un mese dal parto vaccino sì, perché questo è il modo per proteggere anche il bambino col latte, probabilmente. Io invito come sempre i nostri ascoltatori a scriverci i loro dubbi, a raccontarci le loro storie. Vi state vaccinando, che cosa state incontrando, difficoltà, rimandi? Chiamateci oppure scriveteci una mail e commenteremo, leggeremo le vostre mail e cercheremo, proprio partendo dalla vostra esperienza, dai nostri dubbi, di fare chiarezza. Professor Remuzzi, noi ci sentiremo presto, praticamente quasi ogni giorno, e intanto io la ringrazio per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie e buona giornata a voi. Andiamo a Donato da Varese, riprendiamo a parlare di fratelli. Donato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prima di tutto, guarda, le faccio un complimento. Qualche volta, francamente, mi veniva voglia di avere qualche patologia per dire, oh, finalmente posso parlare anch'io con Nicoletta. Ma Donato, ma noi parliamo molto di prevenzione, quindi Donato, certo. Lei è sempre invitato. Grazie. Guardi, io chiamavo fondamentalmente per dare la mia piccolissima testimonianza in fatto di fratelli. Prima di tutto, tra me e mio fratello ci sono molti anni di differenza, ce ne sono 7 e mezzo. Sì. Però le confesso che in 35 anni che io esisto ci fosse una persona che ci ha mai neanche vagamente confuso per fratelli. Io sono biondo con gli occhi azzurri, lui è moro con gli occhi scuri. Io sono liscio, lui è riccio. Lui è alto quasi 1,90 m, io a stento, ahimè, 1,70 m. Nelle botti piccole c'è il buon vino, però. Abbiamo anche scelte di vita molto diverse, però forse non necessariamente sono date dal patrimonio genetico, può darsi anche scelte personali fatte. Andate d'accordo, Donato, così diversi? Guardi, sì, però non condividiamo molto. C'è il discorso della famosa fratellanza, di cui parlavano anche i suoi ospiti prima. In questo caso, probabilmente, anche in virtù della differenza di età, è molto molto lontana. Cioè, siamo cresciuti come due figli unici, praticamente. La differenza di età è tale per cui quando una persona era in età adolescenziale, io ero un bambino. Quando io ero un adolescente, lui era quasi adulto. Uomo. Ormai adulti tutti e due, diventa quasi un rapporto tra adulti più che tra parenti. Certo. Grazie Donato, ci aiuta la testimonianza di Donato a considerare anche la differenza di età, che come ci diceva il nostro ascoltatore tante volte, no, ci costringe quasi a vivere due vite su binari paralleli, no, che non sono destinate ad incrociarsi. Certo, ed è anche un tema interessante perché molte volte gli stessi ricercatori hanno cercato di capire qual è la migliore differenza d'età che aiuta i fratelli ad andare d'accordo e ad avere la miglior relazione possibile con i loro genitori. In base alla teoria dell'attaccamento, per esempio, se un fratello nasce dai 2 ai 3 anni dopo la nascita del fratello primogenito che gli sta davanti, ecco, quella è un'età perfetta perché un fratello è già diventato sicuro, tranquillo, che la mamma e il papà gli vogliono bene, e a quel punto può godersi la fratellanza senza diventare troppo geloso. Abbiamo Carmine che ci chiama dalla provincia di Brindisi. Carmine, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Ci racconti, Carmine? Io in pratica ho 2 fratelli che sono gemelli, 2 figli piccolini di 30 mesi, che sono un maschietto e una femminuccia. No? Sì. Loro praticamente non parlano molto, però vivono molto in simbiosi. Cioè, per distruggere qualcosa, ad esempio, basta si guardano, vanno e fanno a pezzi tutto. E vabbè, sono 2 grandi, sono fortissimi. Eh sì, Bibi e Bibò. Dottoressa Sacca, questi Bibi e Bibò così uniti anche nel combinare disastri. Insomma, il legame tra i gemelli è molto forte, quasi simbiotico. Come diceva giustamente il signore, spesso simbiotico. Lì dipende ancora una volta, mi spiace dirlo in continuazione, però molto dall'impostazione genitoriale. Cioè, quando io vedo questi gemelli vestiti uguali, pettinati uguali, sembrano una la fotocopia dell'altra e non si capisce mai qual è la copia originale, questo è il dramma, mi preoccupo molto, nel senso che i genitori dovrebbero stare attenti a stimolare delle predisposizioni naturali in ognuno di loro, che magari sono molto diverse uno dall'altro, senza per questo inficiare il rapporto molto intenso che hanno questi 2 gemelli, perché è quasi fisiologico che ce l'abbiano, ma senza arrivare a far sì che uno utilizzi delle doti dell'altro che non possiede, viceversa, cosa che spesso si verifica in queste situazioni. Voglio leggerle un messaggio che ci dà uno spunto di riflessione. Ho vissuto una vita cercando di emulare mio fratello, più grande di me di 8 anni, un rincorsa continua in cui mi sono sempre sentito perdente, anche se la vita ha premiato più me di lui. Eppure mio fratello resta il mio modello. Come mai? Ormai ho 50 anni, ci scrive Luigi. Dottoressa Sacca. Lei che è primogenita, vede che poi alla fine faticate ma rimanete i nostri modelli. Rimaniamo i vostri modelli, uno perché magari i genitori non sono modelli sufficientemente buoni o forse sono modelli inarrivabili e noi siamo più alla portata, questa è una possibilità. Secondariamente c'è anche il discorso che un modello uno se lo deve creare per forza e se ha vicino a sé una persona più grande di lui che fa tante cose, quello diventa il suo modello. Per non parlare poi del fatto che i genitori possono accentuare queste capacità del modello, no? se un bambino vede i suoi genitori molto contenti del fatto che il figlio più grande gioca bene a pallone o scrive bene o disegna bene o è forte o altro, loro si sentono subito delle scartine, certo, subito di volerle emulare, e penserà soprattutto anche di non arrivarci mai. E non ci arriverà mai, perché ognuno deve seguire la sua strada. Il signore che scrive ha seguito la sua strada e probabilmente è andato oltre il modello, però ancora adesso non se ne è accorto. Allora, noi abbiamo due sorelle in linea. Evidentemente i loro genitori sono stati bravi, perché almeno nell'immaginario collettivo sono una coppia che funziona. Abbiamo in linea con noi Paola e Chiara. Ciao Paola. Buongiorno, buongiorno a tutti. E ciao Chiara. Ciao, Chiara, dell'invito. Chiara, tu sei la maggiore. Sì. L'hai trovata difficile la vita? Domanda di riserva? La faccio a Paola. No, allora, per certi versi sì, ma lo dico proprio apertamente, nel senso che il primogenito si becca un bel po' di errori, esperimenti, e chiaramente poi io parlo da persona che ha poi fatto un percorso di un certo tipo, ho fatto analisi psicologica, studio tuttora, però ecco, devo dire che oggi, se prima determinate cose che sono successe nel passato mi hanno creato un senso anche di rabbia talvolta, no? Comunque da non sapere, da non avere i mezzi per poterlo affrontare, oggi è diverso, nel senso che vedo le cose con una chiarezza, con una lucidità diversa, e non sono assolutamente attaccata agli avvenimenti del passato, ma sono assolutamente proiettata a costruire le cose che desidero io e che voglio io, e senza dover appunto espletare desideri della famiglia o di uno dei due genitori, perché spesso per avere l'amore di uno o dei tutti e due i genitori una persona cerca di esaudire i desideri certo, familiare, e dimenticando se stesso, dimenticando chi è. E quindi questo succede a tutti. Cioè, Paola, è successo anche a te? Intanto vedo Alberto che freme, che vuole farti una domanda. Alberto, no, io ragionavo sul fatto che loro come sorelle hanno costruito anche un sodalizio professionale, e mi domando, lo chiediamo a Paola come sorella minore, quanto è faticoso lavorare con il proprio fratello o sorella, quasi associare in modo automatico la propria immagine al fratello o alla sorella. Tra l'altro voi vi siete anche separate per un po', avete fatto cose anche da sole, poi adesso vi siete rimesse insieme. Sì, allora noi abbiamo iniziato insieme, cantando insieme, e non ho una data precisa da fornire di quando questo è successo. Cioè, ovviamente noi siamo diventate famose a Sanremo nel 97, ma noi abbiamo sempre cantato insieme fin da piccoline, fin da piccolissime. E la musica era un po' il nostro sistema di combattere, no, il mondo esterno, di resistere al mondo esterno, era proprio un nostro linguaggio, come spesso i bambini fanno, cioè, certo, i bambini trovano un linguaggio tutto loro peculiare per comunicare, no? E quando sei molto piccolo e senti che magari hai bisogno di un posto dove stare, te lo crei. Senti, ma Paola, adesso che siete di nuovo insieme, tra l'altro con il vostro ultimo singolo, Emozioni, no? Sì, è uscito da pochissimo, e dopo è un'emozione ritrovare la sorella. Sì, assolutamente, ma poi sai, noi non le persone hanno fantasticato sul nostro ipotetico divorzio, tra virgolette, però non è mai successo questo. Noi, proprio per dare contorni finiti, anche per il discorso che facevate poco fa, cioè il fatto di i fratelli e sorelle che spesso lavorano insieme, o anche i soci, sono molto spesso associati, nel senso che non si riesce a pensarli distante dall'altro, uno disgiunto dall'altro, questo a volte può creare dei misunderstanding, anche certo, perché una persona poi è una persona tonda a tutti gli effetti, non è una persona solo perché è con l'altro, capisci? E quindi abbiamo anche per dare un segno di maturità anche all'esterno, ma soprattutto abbiamo fatto anche dei percorsi separati. Io devo chiudervi, perché dobbiamo lasciare salutare tutti i nostri amici, perché è giunto il tempo di salutarci, ma voglio leggervi una mail che è arrivata ora, Laura Banossi prossima alla passata. Da quando conosco Paola e Chiara, personalmente penso che se avessi un fratello o una sorella, purtroppo sono figlio unico, vorrei avere con lui o con lei il rapporto che hanno tra di loro le sorelle Iezzi. In particolare ho sempre apprezzato la capacità che hanno di rispettare reciprocamente gli spazi, delle idee, del lavoro l'una dell'altra, nonostante siano molto unite e quasi simbiotiche. Un bacio grande ad entrambe, Enrico, il koala. Allora, sì, grazie a Chiara. Bisogna dire solo una cosa prima di dire che il rapporto è un rapporto che non so, sembra idilliaco dall'esterno, eccetera. Però si costruisce, è una conquista. C'è un lavoro dietro, per cui ecco, non si improvvisa. Ma noi torneremo a parlare di relazioni fraterne. Saluto Paola e Chiara, la dottoressa Sacca, Alberto Pellai. Vi devo salutare, grazie, a domani. Un saluto da Nicoletta Carbone.